La strage di Anau, il mistero di Volkmarsen, l'allarme in Australia. C'è un pericolo neonazi? Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. A man in Germany crashed his car into a carnival season parade today, injuring around 30 people, including children. The issue of intolerance and hostility towards Muslims is on the mind of IGRI for many, many years. The level of threat we face from foreign espionage and foreign interference activities is currently unprecedented. It is now higher than it was at the height of the Cold War. Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, una nuova puntata di Nessun Luogo Lontano. In questo momento sono le 16.08, 14 secondi, anche quest'oggi vi portiamo a ascoltare quello che accade al di fuori dei confini italiani. 349-238-6666 è il numero per porre domande e commentare i temi che tratteremo quest'oggi. Lo potete fare anche su Facebook, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, trovate anche la diretta video di questa puntata, e poi su Twitter gli account da tenere d'occhio sono Nessun Luogo 24, ovvero il mio personale che è Giampaz. Dopo la strage di Anau di qualche giorno fa, in cui un estremista di destra, che aveva anche postato una sorta di delirante manifesto politico prima di compiere la strage e prima di uccidere la madre e suicidarsi, ieri è arrivata poi la notizia, ancora totalmente avvolta nel mistero, durante le celebrazioni del carnevale nel piccolo borgo di Volkmarsen, un 29enne ha diretto la sua auto contro una fila di persone che stavano festeggiando mascherate, facendo 52 feriti, tra cui parecchi bambini. La polizia non si sbilancia, si sta indagando per tentata strage, non c'è per il momento alcuna allusione al sospetti di terrorismo, ma le indagini stanno procedendo, secondo quanto dice la polizia, in tutte le direzioni. Parallelamente, qualche ora fa, agli antipodi, veramente dall'altra parte del mondo, in Australia, il capo dell'intelligence australiana, in quello che è l'annuale conferenza sullo stato della sicurezza dell'Australia, ha puntualizzato, fra le altre cose, che la minaccia terroristica più seria per l'Australia è quella che proviene da alcuni gruppi neonazisti. Ma è davvero così? C'è un pericolo neonazi che si sta radicando e traendo linfa vitale in varie parti del mondo? Su questo vi invito a commentare, naturalmente cercheremo di corroborare queste ipotesi con esperti, con voci dal campo, come sempre. Detto ciò, la prima cosa da fare è misurare la temperatura. Il primo dossier che continuiamo a tenere d'occhio è quello che riguarda, vi ricordate, sembravano smorzate le proteste per il nuovo atto sulla cittadinanza in India. Se ricordate, se ci seguite, era una legge che prevedeva la regolarizzazione dei migranti non musulmani, quindi induisti, sikh, buddisti e anche cristiani, che provenivano in India dai tre paesi vicini, cioè Pakistan, Bangladesh e Afghanistan. Naturalmente questa mossa del governo Modi aveva provocato una levata di scudi da parte delle non solo delle minoranze musulmane, ma anche delle tante organizzazioni che si battono per i diritti umani, avendo definito questa norma discriminatoria nei confronti appunto della comunità musulmana. Ve l'abbiamo raccontata nelle settimane scorse, sembrava tutto sopito, nel senso che sembrava che la società indiana avesse digerito questo boccone amaro da parte di Narendra Modi. Poi che si è accaduto? Beh, molto semplicemente che forse il politico più importante al mondo si è recato in visita in India. Sto parlando di Donald Trump, che fra le altre cose col suo staff ha permesso al governo Modi di siglare un miliardario accordo per una fornitura di materiale bellico, e puntualmente si sono riaccese le proteste di chi ha approfittato anche della visibilità mediatica, la visita del più importante capo di Stato al mondo proprio in India. Naturalmente vi daremo conto ancora di questa situazione, come prima o poi torneremo ad accendere i riflettori sull'altro grande dossier caldo del governo Modi, che è la situazione in Kashmir. Poi c'è la Siria, continuiamo a cercare di capire che cosa sta accadendo nella provincia di Idlib, dove continua una lunga battaglia che, vi dicevo, va letta quasi su due fronti, perché da un lato abbiamo le forze siriane di Bashar al-Assad, il governo di Damasco supportato dai russi, che sta sostanzialmente piano piano guadagnando terreno, andando a riprendere questa importante provincia, e pochi giorni fa ha liberato quella che è l'autostrada M5, questa lunga arteria che da nord a sud diventa fonte vitale anche per l'economia del paese. A fermare l'avanzata per il momento ci hanno pensato i siriani, spalleggiati invece dall'esercito turco, che in questo momento stanno mirando a riprendere il controllo di un'altra autostrada che si chiama M4, che è quella che collega sostanzialmente le città di Aleppo e Latakia, quindi da est a ovest. È come se queste due grandi arterie, che formano quasi una croce ideale, stiano diventando appunto la croce per chi? E questo è interessante, non soltanto Bashar al-Assad, ovviamente, che punta a un guadagno territoriale ormai definitivo, una Siria da consolidare nonostante la sua debolezza politica, ma anche per la Turchia, solo che i due schieramenti stanno venendo a contatto in maniera sempre più frequente. Proprio ieri vi davamo notizia di un ennesimo bombardamento su postazioni turche. In mezzo c'è una Russia che da un lato ha forti legami con la Turchia, dall'altro appoggia apertamente ormai da parecchio tempo Bashar al-Assad, e secondo molti analisti è la sua stampella militare e addirittura politica. Vedremo nei prossimi giorni se questa battaglia sulla M4, in particolare una volta presa la M5, porterà i risultati sperati dal regime di Damasco. Senza spostarci di migliaia di chilometri, vi do notizia, mentre si avvicina l'appuntamento elettorale importantissimo del 2 marzo in Israele. Dicevo, ci spostiamo in Israele perché Benjamin Netanyahu ha compiuto un'altra mossa. Voi sapete che una delle leve più formidabili che sta utilizzando è, da un lato, minacciare la guerra contro la Jihad Islamica e Hamas, ritenuto politicamente responsabile di questi colpi di testa, sto usando evidentemente un eufemismo visto il lancio di razzi nelle ultime ore verso territorio israeliano. Dicevo, da un lato c'è la leva di una potenziale guerra minacciata da Netanyahu sulla striscia di Gaza, che secondo molti non è conveniente nemmeno per Netanyahu stesso. Dall'altro c'è la questione dei coloni. E poche ore fa ha annunciato, sempre lo stesso premier, diciamo premier ad interim perché tra poco appunto si torna a votare, la costruzione di nuove 3.500 case in un'area che si chiama E1, e siamo in Cisgiordania, tra Gerusalemme e un'altra città colonia, Male Adumim. La comunità internazionale da sempre aveva cercato di congelare quei nuovi insediamenti, dicendo che sono contrari alla legge appunto internazionale. L'ultima mossa, pochi giorni dalle elezioni, è appunto di Netanyahu, che dice: attenzione, è pronto a dare il via a nuove 3.500 case. Secondo gli osservatori più attenti della politica israeliana, si tratta di una mossa per in qualche modo farsi ben volere dai cosiddetti falchi, che ci sono sia tra l'amministrazione evidentemente, ma anche da chi va a votare. Capitolo Libia. Domani a Ginevra c'è un appuntamento particolarmente importante, quantomeno sulla carta, e qua, come dire, la nostra disillusione ormai monta giorno dopo giorno, perché le notizie che arrivano dal terreno non sono mai tranquillizzanti. Peraltro stavo buttando l'occhio proprio adesso alla BBC, che dava una breaking sul primo soldato turco ucciso proprio in Libia, quindi sarebbe la prima volta il re nudo nei due schieramenti. Qualche settimana fa il primo soldato russo, fecero i funerali con molta discrezione e molto silenzio proprio nella madre patria in Russia. Adesso, secondo un'agenzia, vedremo di verificare nei prossimi minuti, sarebbe morto il primo soldato russo, quindi con divisa turca, non quei miliziani siriani ottomani che erano stati spediti dalla Siria alla Turchia. Detto ciò, appunto, la situazione sul terreno rimane parecchio complicata. Domani vi sarebbe un nuovo giro di consultazioni politiche che in qualche modo si intrecciano con le consultazioni strettamente militari, quel famoso 5+5, 5 emissari di Sarraj, Tripoli, 5 emissari di Haftar, Bengasi, che dovrebbero cercare di dirimere una situazione che ormai sembra stancamente e lentamente precipitare verso una guerra, per il momento di bassa intensità. Naturalmente tutti noi speriamo che invece la diplomazia metta a segno un colpo vincente. Arrivano i primi messaggi al 349-238-6666. Ricordo, sono pochissime le regole per partecipare al dibattito in questa trasmissione. Niente volgarità, niente turpiloquio, sessismo o xenofobia e niente messaggi vocali. Ma questo semplicemente per un'esigenza tecnica. Molto spesso andiamo in onda con interviste, ospiti registrati a causa del fuso orario pochi minuti prima e non abbiamo materialmente il tempo di ascoltarvi e mandarvi in onda. Ma se avete i polpastrelli agili e veloci, volentierissimo. Vi leggiamo, c'è una domanda che riguardava la domanda, scusate, la puntata di ieri, Patrick Zaki, la stampa egiziana, magari buttiamo uno sguardo su cosa come sta commentando la stampa egiziana con attenzione la grande lente che la stampa egiziana è sempre più controllata dal regime di Al-Sisi, quindi non mi aspetto, come dire, particolari visioni critiche su quello che è un procedimento giudiziario che, ricordavamo ieri, durerà per il momento, carcerazione preventiva, altri 14 giorni. Detto ciò, vi devo dare conto di che cosa? Della morte di un personaggio super controverso, si chiamava Hosni Mubarak. Bismillahirrahmanirrahim. الأخوة المواطنون الأبناء وشباب مصر وشاباتها. È morto a 91 anni all'ospedale militare di Galà del Cairo. Era ricoverato per un'operazione chirurgica. All'inizio la famiglia aveva evitato di diffondere quelle che erano particolari sul suo stato di salute. Leggendo soprattutto la stampa araba, emergerebbe un tumore allo stomaco per il quale l'ex presidente si era ricoverato. Il figlio Alaa, uno dei due figli di Hosni Mubarak, ha confermato la sua morte con un tweet che recitava testualmente: apparteniamo ad Allah, torneremo a lui. Stamattina si è trasferito tra le braccia di Dio mio padre, il presidente Mubarak. Oh Dio, perdonalo e abbi pietà di lui. Nel giro di un'ora questo tweet aveva, pensate, quasi 1 milione di visualizzazioni, perché c'era un video allegato e 60.100 adesso like. Questo per, come dire, sottolineare quanto l'eredità di Hosni Mubarak sia ancora viva. Personaggio controverso, lo dicevo, per quasi 30 anni ha retto l'Egitto, ha attraversato pagine e pagine di storia. Secondo molti quell'eredità è incarnata in maniera perfetta, quasi esponenziale, quasi fosse un Mubarak 2.0 proprio nel generale Al-Sisi. Ve lo dicevo, 30 anni al potere, dal 1981 fino al 2011, con la cosiddetta primavera araba, quella nata dalla Tunisia, quella che poi si trasferì a Piazza Tahrir, quelle immagini drammatiche, i carri armati, si vedevano a un certo punto in alcune serate persino i cammelli, e poi i fiori porti ai soldati che decisero di abbracciare la popolazione. Poi l'avvento dei fratelli musulmani, le prime elezioni regolari e l'entrata a gamba tesa di Al-Sisi. Poi la storia, lo sapete, come è andata a finire. Nel frattempo Hosni Mubarak era stato incarcerato per l'omicidio e l'uccisione di oltre 250 manifestanti proprio a Piazza Tahrir. In realtà si fece carcere per sostanzialmente 4 anni, perché fu liberato nel 2017 dopo il proscioglimento da parte dell'accusa delle maggior parti delle accuse che le erano appunto state attribuite. Rimane un neo, a un certo punto fu accusato anche e condannato di corruzione e diversione di fondi pubblici assieme a due dei suoi figli. Per tantissimi Hosni Mubarak, che era un militare, era un pilota di aerei da caccia, guidò l'aviazione egiziana durante la guerra del 1973, quella che fece tremare Israele, e poi in qualche modo dopo la fine della guerra molti arabi esultarono dicendo: finalmente un paese arabo può patteggiare da pari a pari con la strapotenza militare e politica di Israele. Dicevo, per molti è ricordato, e un comunicato della presidenza del Sisi proprio in queste ore ha detto: noi celebriamo un grande uomo e un eroe di guerra. Dicevo, al di là dei meriti militari, sempre secondo gli egiziani, quello che ha fatto, secondo molti storici, è stato sprofondare l'Egitto in un sistema di corruzione, uno strapotere dei militari, un'economia che arrancava totalmente nonostante il turismo andasse bene. Peraltro scampò alla morte proprio quando andò al potere. Era il 14 ottobre del 1981, Sadat venne assassinato, lui rimase solo ferito e 8 giorni dopo iniziò quella sua lunga carriera politica, che adesso finisce. La domanda che si fanno tutti con la scomparsa di Hosni Mubarak, che è appunto quasi retorica, chi ha raccolto quell'eredità? Perché molti sottolineano che l'Egitto è tornato esattamente in quel modello autoritario in cui l'esercito gioca un ruolo fondamentale, che vediamo con Al-Sisi. Allora, c'è qualcuno che mi chiede al 349-238-6666 nelle prossime puntate aggiornamenti alla sulla situazione in Yemen. Assolutamente ci torneremo, ci torniamo abbastanza spesso normalmente e sottolineiamo come sempre che quella dicotomia sunniti-sciiti non serve a spiegare la complessità dello Yemen, quindi accogliamo assolutamente di buon grado quelli che sono i vostri suggerimenti. Qualcun altro, facendo riferimento alla complessità della situazione siriana, in particolare il ruolo della Turchia, dice: ma non è che nel suo affannoso interventismo si sta mettendo in troppi, e lo usa tra virgolette, in troppi casini? È una delle critiche che l'opposizione anche gli muove al suo interno, un Erdogan particolarmente attivo sui dossier di politica estera, in politica interna particolarmente repressivo. Non passano settimane o mesi che non vi siano arresti. Proprio due settimane fa un nuovo giro di arresti, oltre 200 persone arrestate, facevano parte del giro del dissidente Gulen, che ormai sta negli Stati Uniti, lo ricordate, il grande mandante di quel, al dicono alcuni, autocolpo di Stato. Detto ciò, abbiamo un altro tema da trattare, lo dicevo, ci stiamo chiedendo se esista e quanto è concreto un pericolo neonazista non soltanto in Europa, ma pensate, persino in Australia. La prima cosa che facciamo è andare in Germania per tornare a quella strage di Hanau. Torniamo ad Hanau, questo piccolo centro dell'Asia, per andare a ricapitolare e ripercorrere quelle che sono state ore tragiche, che hanno fatto, da un lato hanno confermato quello che erano i sospetti, le denunce del ministro dell'interno tedesco, dall'altro hanno riacceso i riflettori su una regione che potrebbe vivere appunto un problema anche di natura strettamente politica. Detto ciò, la prima cosa che faremo è far parlare il cronista. Nella fattispecie Wolfgang Buscher, caporedattore del Die Welt, importante quotidiano, ci spiega meglio chi era Tobias Ratien, l'attentatore, quello che in quel video sostenne sostanzialmente che, visto che non si potevano espellere gli immigrati, bisognava farli fuori. Sentite. I read his manifesto, 24 pages. Ho letto il suo manifesto, un documento lungo 24 pagine in cui si mescolano questioni psicologiche a temi razzisti e terroristici. Questo manifesto mostra quanto questa persona fosse disturbata. Scriveva di essere perseguitato da una società segreta di cui nessuno conosceva l'esistenza, tranne lui, e scriveva di aver sentito voci già pochi giorni dopo la sua nascita. Si tratta chiaramente di un caso psichiatrico, mentre invece del caso del Carnevale si sa ancora poco. Per contro, nel manifesto ci sono dei passaggi in cui Ratien parla di nazioni di razza pura e di intere parti del mondo che devono essere distrutte, di popolazioni che devono essere annientate, come ad esempio quelle delle nazioni arabe e di Israele. Si tratta di un mix tra un killer psicopatico e un killer razzista. Era entrambe le cose nella stessa persona. So this is a mixture between a psycho killer and a racist killer. It's both. It's both in one. La voce, l'analisi, il commento, anche se fresco perché sono passati pochi giorni dei fatti di Hanau, da parte di Wolfgang Buscher, caporedattore reportage del Die Welt. Giusto pochi giorni prima, la polizia tedesca, prima della strage di Hanau, aveva smantellato un'organizzazione neonazista che stava pianificando attacchi in stile Christchurch, come è avvenuto, lo ricorderete, in Nuova Zelanda, quell'attacco orrorifico che addirittura ha fatto saltare sulla sedia la premier, ha fatto cambiare la legislazione sulle armi, ha scosso profondamente la società neozelandese. Abbiamo chiesto al giornalista, al collega di Hanau, quanto in Germania e se si sta assistendo a un'ascesa di organizzazioni terroristiche di destra. The new phenomenon is internet-based hate crime and right-wing radicalist. La novità riguarda i crimini d'odio e la radicalizzazione di estrema destra su internet. Queste persone navigano su internet dove trovano pagine e piattaforme dove si radicalizzano. Si tratta di un fenomeno relativamente nuovo. In passato avevamo gruppi di persone che si incontravano nella vita reale. Andavano nei boschi per allenarsi all'uso delle armi e cose del genere. Questi gruppi esistono ancora e coesistono con questa nuova tipologia di terroristi di estrema destra. È la stessa situazione che si riscontra con i terroristi jihadisti che vengono reclutati online. Non è un fenomeno esclusivo del terrorismo di estrema destra. Si parla di lupi solitari, ma al tempo stesso si può dire che non sono completamente soli, perché sono attivi in una rete su internet, dove trovano persone che la pensano come loro e pensieri che condividono. E sulla rete trovano anche piattaforme dove imparare a costruire armi, ad esempio, se dovessero decidere di attaccare. And he finds, of course, platforms who teach him to build weapons, for example, or to do his attacks. Questa è l'analisi di Wolfgang Buscher di Welt, che cerca di fotografare quello che sono i modus operandi di queste organizzazioni neonaziste, terroristi di destra, che a ben vedere, dal punto di vista del nutrimento e dell'expertise, semplicemente si appoggiano, come fanno per esempio i terroristi islamisti, alla rete, che è forse una delle fonti privilegiate, più facili, più fluidi, più accessibili anche per il reperimento di armi, per stare in contatto, eccetera. Ma cercheremo in questa puntata di capire se e cosa, quali fattori permettono di tracciare una linea di demarcazione e di differenza fra il terrorismo islamista, che è quello sulla quale si concentrano la maggior parte dei think tank, di studiosi, dei servizi segreti di mezzo mondo, ma a ben vedere, come sentirete tra poco nel caso australiano, c'è un'altra minaccia, almeno pericolosa tanto questa. Addirittura in Australia il capo dell'intelligence ha detto che è la prima minaccia. Qualche mese fa, era maggio dell'anno scorso, il Ministero dell'Interno tedesco valutava in 12.400 almeno i potenziali terroristi di estrema destra, valutando in 24.000 circa, quindi il doppio, i simpatizzanti dei gruppi neonazisti. Se fosse confermato, sarebbe un numero altissimo e spiegherebbe in maniera, ai noi, malvagia e triste, quello che è accaduto ad Anao. Ripeto, sull'episodio ieri su Carnevale ancora non ci pronunciamo, così come non si pronuncia la polizia e nemmeno i colleghi tedeschi, quindi è inutile fare illazioni. L'unica cosa è che veramente siamo vicini, la regione è quella, è l'Assia particolarmente colpita dal fenomeno. Detto ciò, proviamo a mettere il grand'angolo e proviamo a capire, visto che vi è stato uno stigma da parte di molte associazioni, da parte di alcuni politici del lato opposto, evidentemente verso l'AfD, il partito di destra tedesco, che è ritenuto flirtare con queste organizzazioni. Ma in qualche modo, abbiamo chiesto a Wolfgang Buscher, si sta creando un ambiente favorevole, sdoganando un certo lessico, una certa iconografia, insomma si crea un humus fertile per questi attacchi, nella peggiore delle ipotesi. Sentite. There has always been a certain amount of right-wing and radical right-wing. C'è sempre stato un certo quoziente di pensiero di estrema destra e di estrema destra radicale nel nostro paese, come in altri paesi, ovviamente. L'elemento nuovo, però, sta nel fatto che negli anni 60, nei 70, ma anche negli anni 80 e 90, i gruppi di estrema destra in Germania erano basati sul nostalgismo. Sognavano di un paese che non esisteva più. Sognavano il Terzo Reich, la Wehrmacht. Sognavano di essere un soldato tedesco degli anni 30 o degli anni 40. Fantasie del genere. La novità di un partito come la AfD rispetto a questi movimenti è che ha introdotto un enorme tema politico collocato nel presente, mentre i vecchi movimenti neonazisti o di estrema destra non avevano un tema così potenzialmente attraente. Nel giugno del 2015 l'AfD aveva l'1,7% dei voti. Subito dopo, con l'inizio della crisi dei migranti, l'AfD è semplicemente esplosa. Hanno trovato un argomento politico del presente collocato precisamente nel nostro tempo, ed è questo che li ha resi così forti. Ora, secondo me, l'AfD è un miscuglio di diverse tendenze. Ci sono i conservatori senza più una casa politica che non si sentono più rappresentati dalla CDU né da altri. E ci sono i personaggi di estrema destra e alcuni di questi mostrano anche una certa simpatia verso il terrorismo. Si tratta di un miscuglio molto, molto problematico. Una volta, pochi mesi fa, mi trovavo in Turingia, nella capitale Erfurt, un'antica, bella città, ed era in corso un raduno con Jörg Möten, il discusso leader dell'AfD, ed era pieno di gente che lo acclamava ed era arrivata anche da molto lontano per sentirlo parlare. Queste persone sfoggiavano distintivi, bandiere e simboli che richiamavano indirettamente l'estrema destra. E mi sono chiesto, da dove vengono fuori? Dove sono state per tutto questo tempo? Si trattava, ai miei occhi, di un tipo di pubblico bizzarro che in qualche modo è molto lontano dalla società attuale. Vive nel passato e non accetta lo Stato tedesco nel quale viviamo oggi. Per loro una forma di Stato accettabile è il Kaiserreich, l'impero tedesco che è finito nel 1918. Sono persone così, del tutto fuori tempo, che mi sembrano vivere fuori dal mondo. E alcuni di loro sono pronti ad imbracciare un'arma. Parts of them are ready to grab a weapon and to do something. L'allarme è lanciato da Wolfgang Büscher del Die Welt. Adesso una piccola pausa, le borse e poi la seconda pagina di Nessun Luogo. Radio 24 si sintonizza con te. Partecipa al sondaggio Radio 24 La Mia Radio e dacci i tuoi voti. Raccontaci le cose che ami e quello che ti aspetti dalla radio che hai scelto e che ascolti. Aiutaci a diventare la tua radio ogni giorno di più. Vai su radio24.it e partecipa al sondaggio Radio 24 La Mia Radio. La tua opinione è fondamentale per migliorarci. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. Siamo partiti da un fatto di alcuni giorni fa, la strage di Hanau, poi il mistero su quello che è accaduto ieri sempre nella regione dell'Assia, in quella sfilata di carnevale finita con 52 feriti, tra cui almeno 18 bambini, ma la matrice è ancora sconosciuta. E poi ancora un gancio, come si dice in gergo giornalistico, di cronaca, le dichiarazioni del capo dell'intelligence australiana che ha additato con il pericolo neonazista l'emergenza numero uno in Australia, questo proprio poche ore fa. Esiste davvero un pericolo neonazi e se sì, quanto può essere attivo anche sul territorio? I numeri dati dal Ministero dell'Interno tedesco fanno strabuzzare gli occhi, perché si parla di oltre 12.000 potenziali terroristi su un totale di almeno 24.000 simpatizzanti che frequentano raduni dichiaratamente neonazisti. 349-238-6666, come sempre anche voi ascoltatori ci aiutate ad ampliare gli orizzonti. Uno di voi, un ascoltatore che scrive dagli Stati Uniti, ricorda per esempio la strage di Charlottesville, l'incidente di Charlottesville, e anche facendo riferimento al fenomeno dell'alt-right negli Stati Uniti, e ci torneremo sicuramente. Qualcun altro ricorda, a proposito di manifesti, quello di Anders Breivik, che aveva pubblicato in rete un imponente manifesto, così lo definisce Daniela da Modena, al 349-238-6666, oltre 1000 pagine in cui si ricercava una supremazia della razza bianca e si andava a colpire qualsiasi nemico che potesse aprire in qualche modo a culture diverse. Cerchiamo di capire la concretezza di questo pericolo, ma soprattutto da dove arriva. Mentre qualche ascoltatore dice, guardate che le democrazie occidentali hanno sempre sottovalutato questo pericolo, forse avessero aperto gli occhi un po' prima, non saremmo arrivati a questo punto. Andrea Mamone, docente di storia dell'Europa alla Royal Holloway dell'Università di Londra, ha scritto, fra le altre cose, Transnational Neofascism in France and Italy. Attualmente si occupa del ritorno del nazionalismo in Europa. Professor Mamone, buongiorno, ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno. Grazie per essere con noi. Io partirei da quel numero che davamo, ripetevamo i numeri dati dal Ministero dell'Interno tedesco del maggio del 2019. Stiamo parlando di almeno 12.000 potenziali terroristi. Quanto la preoccupa e secondo lei è un numero alto? Mi preoccupa moltissimo, è un numero super preoccupante. Si tratta in pratica di un piccolo esercito, cioè io non so che parametri hanno utilizzato l'intelligence e la polizia tedesca per arrivare a questi numeri, ma è davvero impressionante. Cioè, ci sarebbe la possibilità di fare attentati a ripetizione, bisognerebbe mettere l'esercito vero e proprio sul terreno per fermarli, cioè una cosa che è abbastanza seriamente preoccupante, cioè non avrei mai immaginato questo numero di potenziali attentatori, diciamo. Sì. E fra l'altro lo stesso collega di prima, Wolfgang Buscher di Welt, sottolineava, non so se avrò tempo di farvi sentire ancora la sua voce, come la polizia tedesca avesse messo in piedi delle unità anti-estrema destra proprio per fronteggiare questo nuovo pericolo. Sempre in Germania il dibattito politico è molto molto acceso, c'è qualcuno che addita l'AfD come grande serbatoio di humus fertile per questo tipo di attacchi, per questo tipo di ideologia estremista. In particolare anche i giornalisti hanno rincarato le dose. L'Economist, il prestigioso settimanale britannico, ha scritto: l'attacco di Hanau dovrebbe rafforzare il cordone sanitario che gli altri partiti hanno eretto attorno alla AfD, Alternative für Deutschland. È d'accordo, professor Mamone, basta, come dire, un estremismo politico per dare corpo alla strage di Hanau, e se sì, come si controlla? Beh, in realtà i cordoni in Germania esistevano, poi abbiamo visto recentemente, quando è stato eletto il presidente di uno dei Land, con i voti di AfD comunque è stato costretto a dimettersi, c'erano state polemiche, la Merkel, quindi diciamo da un punto di vista politico in Germania è ancora sentita questa idea di non far nessun tipo di accordo mai con l'estrema destra. C'è però la questione che effettivamente c'è stato un tentativo di abboccamento, c'è stata una sorta di accordo, ci sono settori soprattutto della CDU, del partito della CDU, che sembra abbiano, insomma, condividono quantomeno l'approccio anti-immigrazione di AfD. Sì. E quindi sicuramente ci potrebbero essere delle coalizioni forse in futuro, non si sa, cioè al momento, finché io sono sicuro che finché c'è la Merkel e c'è questa generazione di politici attuali, è molto difficile, perché abbiamo visto come la cosa è stata bloccata subito. Certo, certo. Effettivamente il partito, io non credo che loro, dico la verità, non credo che l'FD sia responsabile di questo tipo di attentati, però sicuramente c'è una cultura politica dietro, cioè comunque l'odio verso il diverso, l'odio verso l'immigrato, che porta a legittimare alcuni tipi di fenomeni che, ripeto, cioè i numeri che hanno dato sono davvero impressionanti. Sì. La voce che sentite, l'analisi, è quella di Andrea Mamone, insegna storia dell'Europa alla Royal Holloway dell'Università di Londra. In particolare stiamo concentrando la nostra attenzione sul ruolo politico di un partito tedesco, Alternative für Deutschland, che non è accusato, attenzione, di coinvolgimento diretto nell'attentato di Hanau, ma il problema è che il partito stesso ha condannato l'attacco contro i bar, però quelli, il shisha bar. Tuttavia però i leader di AfD hanno derubricato il movente, non hanno mai parlato di ideologie di estrema destra, ma hanno parlato piuttosto del gesto di un pazzo. Molto spesso si assiste, quando ci sono omicidi da parte di europei, stragi da parte di bianchi, c'è un'immediata, mi pare di poter dire senza tema di smentita, derubricazione. Pensate se fosse stato lo stesso attacco da parte di un giovane musulmano, immediatamente si sarebbe gridati al terrorismo islamico. Esiste un doppio pesismo, professor Mamone, secondo lei? Guardi, la risposta non la do, dico semplicemente che gli ascoltatori dovrebbero andare a vedere le reazioni di alcuni politici italiani di destra alla cosa, cioè dove si dicono esattamente le stesse cose dell'SD, ovvero grande vicinanza al popolo tedesco, ma poi delle idee di questo personaggio non si dice nulla. Sia chiaro, io penso che il tipo sia abbastanza folle, sì. Basta vedere il video che lui ha lasciato, ma la cultura politica è una cultura politica di destra, di estrema destra, cioè quello è chiaro, è chiarissimo, sì, c'è tutta sì. una teoria delle cospirazioni dietro, c'è tutta questa idea della sostituzione della razza bianca, c'è questa idea della crociata per difendere l'Europa, l'Europa bianca cristiana dai musulmani. C'è tutta una questione che, insomma, è chiara, evidente, precisa, che quella è un certo modo di pensare, un certo modo di una certa retorica di estrema destra. Per cui lei ha perfettamente ragione, cioè se questo fosse stato un attentato di un giovane o anziano, quello che sia, musulmano, eravamo di fronte a una situazione di terrorismo islamico, dell'Islam radicale. Certo. In realtà diciamo che in ambedue i casi potrebbe essere certamente problemi psichiatrici o altro, ma in ambedue i casi c'è anche una forma di terrorismo. Se non si gira attorno alle cose, questo è un terrorista che da solo ha fatto quello che ha fatto. L'ultima domanda, se riesce, professor Mammone, telegrafico, esiste un antidoto politico se è vero, come stiamo cercando di comprendere e analizzare, che una certa politica dovrebbe, come dire, prendere le distanze, condannare in maniera ferma, evitare di flirtare con certi ambienti? Dicevo, esiste un antidoto politico per quel famoso cordone sanitario? Il cordone sanitario, come dicevo prima, già è rotto in moltissimi posti. Come si ricuce? Si ricuce, cambia, ritornando a una cultura politica, diciamo, sotto alcuni punti di vista anche antifascista, ma sicuramente bisogna abbassare i toni della politica. Non si può legittimare l'odio, non si può parlare sempre in continuazione contro gli immigrati, contro i diversi, contro l'Europa, contro la Cina, contro il Giappone, contro chi sia, perché in questa maniera si legittima un discorso dell'odio. Il problema è quando si instilla questo tipo di nazionalismo, questo tipo di odio, poi è difficilmente controllabile, perché è impossibile controllare chiunque. Quindi nessuno di questi politici, diciamo, mainstream di estrema destra danno l'ordine di vai a fare questo attentato, assolutamente no, certo. Non lo penserò mai, non lo dirò certo. Mai, ma certamente una certa retorica, anche quella nostrana, ma anche quella negli Stati Uniti di Trump, l'Ungheria di Orban, porta un odio verso qualcun altro, un odio verso il diverso che può assumere varie forme. Grazie mille, ringrazio il professor Andrea Mammone, docente di storia dell'Europa Royal Holloway dell'Università di Londra, con questo suo accorato appello a una pacatezza, a una sobrietà, a un'intelligenza anche del lessico politico. La ringrazio, la lascio al suo lavoro, facciamo una piccola pausa. La viabilità e poi l'ultima pagina di Nessun Luogo, dove andremo agli antipodi. Nessun luogo è lontano. Ancora ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori in questa pagina di Nessun Luogo Lontano. Proviamo a passare alla macchina ai raggi X, quello che è un fenomeno molto allarmante secondo il governo tedesco, super allarmante secondo quello australiano. Fra poco vi farò sentire la voce del capo dell'intelligence. Questi rigurgiti neonazisti che molto spesso hanno trovato, come nella strage di Hanau, anche un risvolto concreto, benefico. Il Ministero dell'Interno quantifica in almeno 12.000 i potenziali terroristi, tanto che le forze dell'ordine della Germania si sono dotate di unità speciali proprio per combattere questo fenomeno, che è molto attivo soprattutto in internet. Ci si danno appuntamenti, ci si scambiano idee, iconografie, si postano manifesti, come alcuni di voi hanno ricordato. Prima di andare in Australia, do spazio appunto ai vostri commenti. Ce n'è uno interessante perché inquadra il problema da un'ottica che per il momento avevamo tralasciato. Questo ascoltatore scrive: il problema va inquadrato in relazione alla chiusura sociale. Quando manca la visione positiva del futuro, si guarda al passato, c'è nichilismo, manca lo scopo e si cerca lo scopo. Giovani e meno tagliati fuori dal banchetto sociale, più redistribuzione di risorse, ricchezze ed opportunità è l'unica medicina contro gli estremismi. Mi piace questa analisi, la trovo particolarmente efficace, forse diranno alcuni riconduce un po' troppo a quelli che sono aspetti economici, ma mi trova d'accordo soprattutto nel trovare un punto di vista diverso per cercare di spiegare un fenomeno che è assolutamente complesso. Qualcun altro dice: attenzione che molto spesso anche con gli attentatori estremisti islamici vengono derubricati come pazzi e non come musulmani. Un altro ascoltatore: da noi il fenomeno è pesantemente sottovalutato, troppe volte derubricato a eventi di singoli folli e fin troppo evidente in certi ambienti che in certi ambienti politici italiani certe idee piacciano e come. Poi c'è qualcun altro che ci stigmatizza con parole irripetibili e dandoci dei comunisti, credo, se capisco bene della cosa, e questo lo trovo particolarmente interessante. Cioè, uno cerca di inquadrare un fenomeno che secondo il Ministero dell'Interno tedesco conta 12.000 potenziali terroristi, ci sono delle persone che si riuniscono con delle svastiche e con dei simboli neonazisti, fanno una strage a Hanau, e il giornalista che le racconta è comunista e deve anche andare a quel paese. Beh, io lo trovo francamente bizzarro. Detto ciò, vi porto, come detto, in Australia. La voce è quella di Mike Burgess, che è il direttore dei servizi segreti, ha parlato ieri, poche ore fa, ha dato il fuso nella conferenza annuale sulle minacce alla sicurezza del paese. Primo punto interessante, vado velocissimo, attenzione, perché ha parlato di una potenza straniera che ha infiltrato spie per fare spionaggio a tutti gli effetti. Gli osservatori dicono sta parlando della Cina, ma ci torneremo su questo tema. Poi però ha detto una cosa interessante che ha a che fare con i numeri dei terroristi, sentite. The number of terrorism leads we're investigating right now has doubled since this time last year. Il numero dei terroristi su cui stiamo indagando è raddoppiato rispetto all'anno scorso. Sentite come descrive queste cellule che si ritrovano soprattutto nelle zone rurali australiane. In suburbs around Australia, small cells meet regularly, salute Nazi flags, inspect weapons, train in combat and share their hateful ideology. Hostile services have directly threatened the lives and intimidated Australians in this country. Poche ore fa Mike Burgess, capo dell'intelligence australiana, nelle periferie piccole cellule si incontrano regolarmente per salutare la bandiera nazista, provare armi, simulare combattimenti e condividere l'ideologia dell'odio. Questi gruppi, ha detto, sono più organizzati e consapevoli dei rischi che in passato. Come al solito proviamo, come dire, metaforicamente a spegnere il microfono, metterci lo zaino in spalla, camminare per un bel po', e andiamo in Australia. Lo facciamo con Davide Schiappapietra, che è giornalista, lavora per la radio SBS in Australia, sentendo un primo commento del collega su questa relazione importante annuale del capo dell'intelligence. Il direttore dell'ASIO, i servizi di sicurezza e di intelligence australiani, ha parlato durante il rapporto annuale della sua agenzia di terrorismo. Nel farlo ha spiegato che le indagini sul terrorismo in Australia sono quasi raddoppiate rispetto allo scorso anno e che, sebbene la priorità rimanga quella delle indagini sul terrorismo di matrice islamica, quello di matrice o ispirazione neonazista o comunque di estrema destra è in questo momento tra le minacce più significative per la sicurezza australiana. Ha infatti detto che il terrorismo di estrema destra è reale e sta crescendo in Australia. Ha voluto fare degli esempi, Michael Burgess. Nei quartieri periferici australiani, delle città più importanti, secondo lui, si svolgerebbero regolarmente dei ritrovi, degli incontri da parte di esponenti o simpatizzanti dei gruppi, durante i quali, appunto, questi incontri con simboli nazisti presenti, ci si eserciterebbe al combattimento o anche all'uso delle armi da fuoco. Ha anche aggiunto che in questo momento le cellule di estrema destra in Australia sono diventate più esperte in termini di sicurezza e uso dei mezzi di comunicazione e tecnologici rispetto al passato. E oltretutto, proprio grazie a questi mezzi di comunicazione, per esempio piattaforme online come The Base, cercano sempre di più dei contatti con organizzazioni o cellule che operano all'estero. Un qualcosa che non è nuovo, perché il terrorismo o l'estremismo di estrema destra australiano ha sempre in qualche modo tratto ispirazione da gruppi esteri. Un esempio sono, per esempio, le succursali australiane di gruppi come i Proud Boys, che sono stati fondati in Nord America. La voce che avete sentito è quella di Davide Schiappapietra, giornalista, lavora per la radio SBS in Australia, che ci aiuta a fotografare meglio questo rischio, appunto, che arriva dall'altra parte del mondo, il rischio neonazista. E quante persone aderiscono e come sono organizzati? E ha sottolineato il carattere transnazionale, questo è molto interessante. Ascoltate ancora Schiappapietra. È molto difficile capire quante persone realmente aderiscano a questi gruppi di estrema destra o addirittura neonazisti. Bisogna distinguere fra coloro i quali sono semplicemente dei simpatizzanti occasionali, oppure dei simpatizzanti convinti, o addirittura dei partecipanti alle attività che questi gruppi organizzano e alle manifestazioni. La metrica che viene utilizzata spesso è quella di contare il numero di persone che partecipano attivamente ai forum online o ai gruppi Facebook o su Twitter. In questo caso se ne contano migliaia, però bisogna considerare questo. Gli esperti con cui ho parlato mi hanno fatto capire che un singolo individuo tende a partecipare alla discussione su diversi forum o a mostrare supporto per diversi gruppi. Quindi viene moltiplicato, diciamo così, l'effetto di questi individui. Un calcolo approssimativo potrebbe essere nell'ordine delle centinaia. Per quale motivo noi ci preoccupiamo di poche centinaia di persone? Perché singoli individui possono, ispirati appunto da questi gruppi e dalle loro motivazioni, compiere azioni estreme, come quella che appunto è avvenuta quasi un anno fa, il 15 di marzo del 2019, in Nuova Zelanda, nella città di Christchurch, dove l'australiano Brent Tarrant ha ucciso 51 persone in un attacco ad una moschea e ad un centro islamico. Questo è stato, per così dire, lo spartiacque che ha posto, diciamo così, l'attenzione dei media australiani e dei servizi di sicurezza nei confronti, diciamo così, rivolto nei confronti dei gruppi di estrema destra. La voce, il commento, l'analisi di Davide Schiappapietra, giornalista SBS in Australia. Ho un sacco di messaggi da leggere, ne sintetizzo alcuni. Molti continuano a puntare il dito sulle poco efficaci politiche migratorie per giustificare anche la nascita e il rigurgito di questi gruppi neonazisti. Ci torneremo sicuramente, ma adesso c'è solo una parola. Ode! Che prelude ai titoli di coda e ringraziamenti a voi tutti, alla squadra di Nessun Luogo. L'appuntamento è per domani, ore 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci.